il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E potevamo mancare anche questo sabato, giammai il sabato, come se no possiamo tornare con riflessioni pacate, a volte anche appassionate, a fare un bilancio dei fatti della settimana. D'altronde vi ricordate, ci siamo sentiti direttamente dalla Fiera Internazionale del Libro di Torino, c'erano sia ascoltatori che spettatori. Adesso sono ritornata alla nostra, alla vostra formula tradizionale, quella insomma con le ascoltatrici e gli ascoltatori dentro le cuffie, voi al telefono, il telefono che è sempre 800 24 00 24, però ogni volta c'è un motivo per confermare che non ci sono più le mezze stagioni. Uno, sentite il mio naso otturato, è possibile ammalarsi di bronchitella a fine maggio? Non so, vorrei prendermela con Colonnello Giuliacci, ma penso che proprio oggi sarà latitante dalla nostra trasmissione. E poi un'altra cosa, il fumo nei ristoranti, il fumo nelle cucine di ristoranti. Voi direte, naturalmente quello è dell'arrosto, delle cose che si cucinano. Ebbene no, siccome non ci sono più le mezze stagioni, quel fumo non è più il fumo delle cose che si cucinano, ma il fumo da spinello. Direte, sì, figuriamoci. Sì, invece è proprio una, come si può dire, un'inchiesta, denuncia, comunque un'analisi, un fatto oggettivo del New York Times questa settimana, che ha scoperto questo fenomeno finora inedito, almeno tra noi comuni mortali, che è diffuso tra i grandi chef e che va appunto va di moda lo spinello in cucina. Una piccola, scrive il New York Times, una piccola ma influente banda di cuochi dice che le loro creazioni e l'atmosfera rilassata e positiva dei loro ristoranti sono il frutto di erbe che potenzialmente, dice, ti mandano dietro le sbarre. E fa tutto un elenco di grandi chef che sono lì a cucinare in America, avete capito, insomma, ognuno come va avanti e diciamo si dà una spinta in questo caso per evidentemente elaborare una maggiore creatività. Ma noi ritorniamo con le notizie della settimana, a parte che questo era un fatto della settimana. Cosa vi ha colpito di più? Se voi doveste esprimere liberamente, come sempre, qui la vostra opinione su una notizia di questi giorni, su quale vorreste dire la vostra? Ritorniamo ancora, se volete, sui tagli alla politica, no? C'è stata la proposta di Tremonti, a proposito di manovra economica, di un 10% rispetto al 5% di Calderoli della scorsa settimana, di tagliare gli stipendi dei parlamentari. Ne abbiamo parlato molto anche con Luca Ricolfi, sociologo, l'altra settimana. Possiamo tornare a parlare, c'era un bellissimo articolo di Gian Antonio Stella questa settimana sul Corriere, che è stato ospite qui di recente. Poi ci sono le intercettazioni, c'è la vicenda di Santoro, c'è la vicenda di Maria Luisa Busi che si toglie dal video del TG1 perché non più d'accordo con la linea editoriale, la cellula artificiale, dove andremo a finire, si potrebbe chiedere qualcuno, invece per altri un progresso, qualcosa di curioso, di interessante, la finale di Champions, che poi naturalmente Radio 24 seguirà, un grande evento. Su cosa volete tornare? 800 24 00 24. Ma prima di tutto, prima di tornare ai fatti della settimana, direi di andare verso la presentazione della mia opinionista estemporanea di questa settimana. Michela Marzano. Buongiorno. Michela, mi aspettavo un bonjour, bonjour, visto che Michela Marzano è filosofa, certo, italiana, ma vive a Parigi da diversi anni. Tu, Michela? Sì, vivo a Parigi ormai, vivo e lavoro a Parigi da 12 anni. Oh, figuriamoci. Ed è docente all'Università di Parigi Descartes, autrice di numerosi saggi, numerosi articoli di filosofia morale, di politica. L'ultimo saggio che mi ritrovo qui tra le mani è, diciamo che davvero è un imperativo, diciamo, piuttosto irritante, ma poi nel suo libro si capisce ed è piuttosto eloquente, Sibella e stai zitta, pubblicato da Mondadori. Prima ancora che Michela ci spieghi in poche parole un po' di cosa si tratta, vado subito a prendere, a capire da dove ha preso questa citazione, che mi pare che tra l'altro fosse, Michela, sai, anche in una campagna elettorale libanese di qualche tempo fa in Libano, Sibella stai zitta o vota e stai zitta, una roba del genere. Comunque, è di Charles Baudelaire, il poeta, il grande poeta dei fiori del male, che dice: cosa apprezzi di me, mio strano amante? Cioè la donna che dice questo al suo amante, e lui dice: Sibella e taci. Michela. Eh sì, effettivamente, pensando al verso di Baudelaire, Sois belle et tais-toi, che ha tutta una bella musica in francese, che ho pensato di dare questo titolo al libro, però quello che è importante è anche il sottotitolo. Il sottotitolo che dice: perché l'Italia di oggi offende le donne. Perché in realtà quello che mi interessava in questo saggio era proprio cercare di capire i motivi per i quali progressivamente si sta assistendo a una regressione per quanto riguarda la situazione e lo statuto delle donne, per quanto riguarda la dignità delle donne. E quindi la frase bella e stai zitta traduce, secondo me, una certa atmosfera, una serie di messaggi, una serie di immagini, una serie di ingiunzioni che le donne ricevono sempre di più e che le impediscono di essere presenti e attive nella sfera pubblica, e hanno sempre di più tendenza a relegarle alla sfera privata. Tra l'altro, nell'introduzione tu, Michela, scrivi: l'estate scorsa mi sono dovuta arrendere all'evidenza. La regressione delle donne italiane non è solo un mito, una storia che si racconta all'estero per mettere in cattiva luce il nostro paese, è una realtà. Eh sì, è una realtà, nel senso che se ne parlava, anche in Francia arrivavano questi discorsi secondo i quali si assisteva a una vera e propria regressione. E poi quest'estate ho cominciato a fare proprio la mia inchiesta, essendo venuta in Italia per passare le vacanze, e mi sono appunto accorta, ci sono stati vari fenomeni. Primo, tutto si è scatenato con la questione delle veline che erano state iscritte sulle liste politiche, sì. Poi c'era stato lo scandalo delle escort, e poi proprio durante l'estate è scoppiata la polemica sulla RU 486, e lì è stato proprio uno dei momenti in cui mi sono resa conto che il dibattito pubblico per delle questioni che riguardavano direttamente le donne era monopolizzato dagli uomini. E quindi è stato il punto di partenza per dire: ma cosa è successo alla mia Italia? Cara Michela Marzano, io credo che in questo momento voglia intervenire anche Ornella Vanoni per dare un consiglio a tutte le donne italiane in particolare. Vivi sempre con passione, rispetta le persone e l'amore per te stessa. Mi voleva intervenire Michela. Dicevo, tra le notizie, invece, ritornando alle notizie di questa settimana, cosa che ti ha colpito di più? Dimmi solo il titolo, l'argomento, poi dopo ci andiamo a fondo. Ma tra le varie notizie mi ha colpito molto la notizia della Busi, che ha deciso di lasciare. Maria Luisa Busi del TG1. Sì, il TG1. Ma tu la vedevi, tu vedi il TG1 lì da Parigi o guardi la TV francese, ma hai letto di questa cosa? Guardo e cerco di guardare entrambe, nel senso che di seguire naturalmente tutto quello che accade in Francia, però cerco anche di seguire costantemente quello che succede in Italia, e devo dire che progressivamente avevo smesso di guardare il TG della 1, proprio perché rispetto a quello che succedeva mi sembrava che ci fosse un decalage, e quindi mi irritava, anche se lo guardavo da un punto di vista antropologico, perché mi sembrava interessante vedere fino a che punto i fatti venivano un po' stravolti. Michela, va bene che sei in Francia ormai da tanti anni, decalage vuol dire insomma una specie di peggioramento, ecco, in questo senso? No, un decalage, ogni tanto è vero che mi viene una parola, no, la differenza, differenza tra i fatti così come uno scarto in questo senso, ho capito, uno scarto, esatto, tra la realtà e quello che diceva Maria Luisa Busi, dicendo: non voglio più essere in video perché questo TG cancella l'Italia reale. Poi vediamo cosa ne pensano le ascoltatrici e gli ascoltatori, già ce ne sono alcuni in attesa. Il numero verde 800 24 00 24, ma per dimostrare che qui non ci sono più le mezza stagioni, c'è grande democrazia, anche sempre un punto di vista da altri pianeti. Riflessioni da Marte. È bello quassù da Marte scoprire che sulla Terra, e in specifico nella penisola italica, non avvengono solo cose negative o criticabili, come prima diceva Michela Marzano. Si sta invece sviluppando in Italia, diciamolo forte e chiaro anche qui da un altro pianeta, si sta sviluppando in Italia una forte sensibilità civica, civile, una robusta e profonda attenzione ai diritti umani. L'ultimo fulgido esempio è quello di una deputata che si è fatta paladina, a proposito di intercettazioni, del diritto alla privacy anche dei boss. E perché no? Perché cosa credete voi, infatti, che al di là del fatto che ogni tanto facciano a pezzi qualcuno, e via, non stiamo a formalizzarci, non abbiano anche loro, i boss, diritto a una vita privata? Che anche se la mafia, con un fatturato complessivo di 130 miliardi di euro l'anno, è la prima azienda italiana, eppure se c'è questo fatto oggettivo, e forse i mafiosi non possono avere anche loro una vita intima, familiare, le loro passioni, le loro fragilità. Non so, tra un efferato omicidio e l'altro, avrà giustamente pensato la deputata in questione, avranno pur diritto i mafiosi di esprimere al telefono tenerezza e sessualità, a volte magari parlano anche di emorroidi, perché no, senza essere però arbitrariamente spiati. Questa sì è una battaglia di civiltà. Del resto, al telefono i mafiosi non dicono nulla di compromettente, solo sentimenti, passioni, tenerezze che meritano di rimanere riservati. E ve lo voglio dimostrare con una straordinaria intercettazione, attenzione, eh? Ciao, sono io. Ah, buonasera, dottore. Sì, mi dica. Non resistevo più, pensavo a te. Ah, bene, direi che è importante. Quando verrà? Ma adesso non so, dipende. Non parlare se lì ce l'hai. Beh, ogni tanto, perché in realtà ce l'hanno anche loro e i loro amanti, ma cosa c'è di male? Del resto il maschio è maschio e quando è mafioso è risaputo, lo è anche di più. Comunque avete sentito, nulla che valga la pena di essere intercettato, ma un'altra battaglia di civiltà portata avanti da intrepidi eroi moderni è quella contro i veri colpevoli di tutti i mali della società, compresi la crisi economica e l'invasione dei pollini che creano allergie. Chi sono questi degenerati che meritano di essere intercettati e combattuti? I gay, donne e uomini. E dunque, cosa è successo a Udine in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia? Lunedì scorso, lunedì 17 maggio, ragazze e ragazzi gay, con il patrocinio del comune di Udine, hanno affisso per la città manifesti con baci fra persone dello stesso sesso. Una cosa indegna. E cosa hanno fatto gli impavidi paladini di un piccolo partito italiano? Come fulgidi cavalieri della notte hanno prontamente ricoperto tutti i manifesti, oscurando quell'incitazione al male supremo e rivendicando poi il gesto con virile orgoglio. Vedete dunque, in Italia quanta sensibilità per i diritti civili e quali straordinarie battaglie si stanno combattendo, in particolare a questi ultimi eroici fustigatori udinesi, a questi uomini veri, vorrei dedicare da qui, da Marte, una serenata in esclusiva. Eppure sembra un uomo, vive come un uomo, soffre come un uomo, è un uomo, nasce fragile e incerto. Poi quando ha la ragione si nutre di soprusi e di violenza e vive e non sa il perché della sua esistenza. Torniamo coi piedi per terra, non so se era il digitale terrestre che mi ha permesso questo collegamento con Marte, ma insomma adesso progrediamo anche noi con le tecnologie. C'è sempre Michela Marzano, filosofa, studiosa, che docente all'Università Parigi Descartes, che è in Italia in questo momento, quindi stiamo parlando, è la mia opinionista estemporanea di oggi. Però prima di andare a Michela di nuovo, che diceva che la notizia che più l'ha colpita è questa lettera di Maria Luisa Busi, volto notissimo del TG1, che ha deciso di scrivere al direttore Minzolini dicendo non mi riconosco più in questo TG1, in questo TG, quindi non voglio più andare in video, mi sembra che ci sia soltanto un pensiero unico. Sentiamo dal numero verde 800 24 00 24 Francesca da Varese. Pronto? Francesca. Un attimo che tengo. Che stai facendo? Allora, hai spento il gas? Con la dottoressa Marzano. Sì. Che apprezzo moltissimo insieme alla dottoressa Ventura, ho avuto modo di vedere in qualche talk in TV. Sono donne veramente di cui andare fieri all'estero. Stai per gli anni. Anche se qualcuno le chiama snob, esuli snob che pontificano dall'estero, no? Qualcuno anche a Radio 24. Scusami un attimo, Francesca, tu pontifichi dall'estero, Michela? No, però ho capito a cosa fa riferimento. No, io non pontifico né all'estero né in Italia, lungi da me, sarebbe assolutamente assurdo. Anche perché qua di ponti ne abbiamo a sufficienza e poi se ne farà un altro. Francesca, prego. Dunque, io mi volevo associare ai complimenti che hanno già espresso alla signora Busi, alla quale va tutta la mia solidarietà, e mi chiedo come abbia fatto a resistere fino ad oggi al TG1, ovviamente, con quell'adulatore di Minzolini. E però mi chiedo anche come faccia a resistere nella rete, visto che la rete Rai 1 è piena di adulatori, basta guardare Vesp. Quindi, visto che lei comunque è sposata con Riccardo Chartoux, che è un bravissimo giornalista degli esteri di Rai 3, del TG3. Sa tutto, Francesca. Mi augurerei, sì, mi piace moltissimo Chartreux. E mi augurerei che lasciasse la rete, che desse veramente un taglio netto, perché almeno completerebbe così, dando un segnale fortissimo. Poi volevo parlare, secondo me, del caso della settimana, che è quello di Santoro. Perché anche in una notissima trasmissione serale condotta da un notissimo conduttore radiofonico di Radio 24, ieri sera appunto è stato detto in mille modi che non si capisce cosa abbia voluto dire Santoro, non si capisce. Nell'ultima puntata, dici, o con questo accordo che ci sarebbe stato? Quando l'altra giovedì sera ha fatto quel monologo di 20 minuti dove si è scagliato contro il PD, i consiglieri della RAI, i direttori dei giornali ovviamente, però quello che ha detto è molto molto chiaro, almeno io che non sono una cima e che mi reputo di un'intelligenza normale averlo capito, cioè lui non ha fatto altro che ripercorrere dall'inizio quali sono i motivi che hanno portato a questa situazione, cioè torniamo indietro al famoso edito bulgaro di 8 anni fa che lo ha messo fuori, poi la sentenza del tribunale lo ha reintrodotto e immaginiamoci per lui in quali condizioni. È chiaro che noi non lo percepivamo perché la trasmissione era sempre preparata in maniera ineccepibile ed è evidente che uno, se ha avuto delle difficoltà, mica lo va a raccontare un attimo prima di andare in trasmissione, però a un certo punto, quando poi il troppo ha dovuto raccontare quello che succedeva, e infatti ha fatto l'esempio del caso dell'intervista della Daddario, quando aveva sul tavolo la lettera in cui veniva praticamente minacciato di provvedimenti se avesse dato corso al programma della trasmissione. Quindi tutti quelli che si chiedono cosa vuole, cosa non vuole, dunque è una trasmissione che ha assicurato alla RAI degli introiti stratosferici, degli sponsor, l'audience, voglio dire, lui ha detto semplicemente: io in queste condizioni di continuo accerchiamento non posso stare, secondo me faccio una trasmissione che dovrebbe essere la perla, e di fatto lo è, e voglio dire, anche il fatto di accusarlo di essere fazioso, lui non è dalla propria parte, tutti siamo dalla nostra parte, ok? Tutti, grazie Francesca, tutti siamo dalla nostra parte, quindi questa è un'analisi molto lucida, condivisibile o no, di Francesca da Varese. Voi siete d'accordo? Cosa ne pensate anche del caso Santoro, del caso di Maria Luisa Busi, delle altre notizie della settimana? 800 24 00 24 per le vostre telefonate, le vostre opinioni in libertà. Michela, volevi fare un commento anche sul caso Santoro? Tu eri partita dal caso Busi. Anche il caso Santoro è effettivamente interessante ed è un po' sintomatico della situazione difficile che si sta vivendo in questi ultimi periodi, in quest'ultimo periodo in Italia, cioè la difficoltà di poter avere uno sguardo critico rispetto a tutta una serie di fatti politici, economici che accadono, e poter esprimere l'opinione senza essere accerchiati, senza essere minacciati, senza essere considerati come dei mitomani che non hanno più contatto con la realtà. Perché il problema è proprio quello che sottolinea la Busi, cioè il problema che si sta assistendo progressivamente a un pensiero unico che si impone, e nel momento in cui il pensiero unico si impone, tutti coloro che pensano in maniera diversa sono marginalizzati, sono emarginati, sono esclusi, sono considerati come degli outsider, come delle persone che devono essere espulse dalla società. 800 24 00 24 il numero adesso lo ha fatto, grazie a Giorgio De Luca che continua a prendere le vostre tante telefonate, Alessandro da Arezzo. Sì, Alessandro, pronto? Sì, siamo qua. Sì, ciao, sì. Buonasera, volevo appunto fare complimenti alla trasmissione per questa iniziativa che state prendendo a difesa anche di queste, cioè le testimonianze della Busi sono testimonianze forti secondo me. Alessandro, comunque, no, nel senso, io do spazio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici qualunque sia la loro posizione, come trasmissione, non sto prendendo difesa. Però quando si arriva ad assistere a dimissioni di tipo quelle della Busi, che dicono con forza queste cose che lei ha detto, e soprattutto non se ne trova poi traccia, se non nei giornali o in trasmissioni radio o altre, c'è una copertura proprio totale a livello televisivo, mi sembra che stia accadendo qualcosa di grave nella nazione. Questo secondo me meriterebbe una forma di attenzione maggiore da parte di tutti gli organi di stampa, ma anche della politica. Dimmi una cosa, Alessandro, quando sei tra i colleghi, tra gli amici, tra i parenti, trovi più opinioni che corrispondono alla tua o più divergenti? Ma le opinioni sono, purtroppo c'è molto disinteresse secondo me in questo momento verso le cose che riguardano la politica, e Sinceramente questo lascia molto spazio anche a forme come questa, insomma, di cioè, gravi forme di non lo so, ecco, di mancanza di rispetto verso i diritti civili, che ecco perché quando si arriva effettivamente a dare copertura a notizie come questa è molto grave, insomma, secondo me. Grazie Alessandro. A proposito di diritti civili, Michela Marzano, lo dico alle ascoltatrici e agli ascoltatori, scusate questo affaticamento, ma non essendoci più le mezze stagioni io mi ammalo a fine maggio. E volevo dire una cosa che mi ha colpito molto questa settimana. Allora, intanto ve lo ricordo, lunedì di questa settimana, 17 maggio, era la giornata mondiale contro l'omofobia. Il presidente Napolitano in Italia ha detto: i diritti dei gay sono i diritti di tutti. E la ministra delle pari opportunità Mara Carfagna ha fatto un atto di umiltà, di mea culpa e anche di grande dignità che mi ha colpita. Scriveva anche Michele Serra su Repubblica, di solito un giornale non così amichevole nei confronti della Carfagna e del governo, diceva: bisogna riconoscerle, perché lei ha detto mi scuso con tutta la comunità omosessuale, con le lesbiche, i gay, se finora ho avuto dei pregiudizi, se a volte ho detto delle cose sbagliate, avevo dei preconcetti, la mia collega e diciamo avversaria politica, perché Paola Concia è deputata del PD e lesbica dichiarata, mi ha insegnato con delicatezza, con competenza, eccetera, con pazienza a superare i miei pregiudizi, i miei limiti. Adesso posso dire che insieme a lei voglio fare qualcosa di utile, difendere i diritti degli omosessuali, che appunto sono i diritti di tutti. Ecco, questo autocritica e poi il cambiare opinione e riconoscere un'avversaria di averle insegnato qualcosa, lui dice, è di una donna. Io non l'ho mai sentito, dice Michele Serra, mai fare un atto del genere, una dichiarazione del genere da un politico uomo del presente o del passato. Michela. Allora, è un gesto che merita effettivamente di essere salutato, nel senso che è una cosa molto bella il fatto di poter riconoscere di aver sbagliato, il fatto di poter riconoscere di aver avuto dei pregiudizi e di essere pronti a rivalutare le proprie posizioni. Allora, che sia l'unico caso nella storia e che venga da una donna, su questo sono forse meno d'accordo, nel senso che purtroppo è qualcosa poco alla moda oggi. Oggi la tendenza è quella di non riconoscere mai i propri errori e di continuare a insistere, come se insistendo e ripetendo più volte una stessa cosa, questa cosa diventasse per magia la verità. Però nel passato è anche vero che ci sono stati dei momenti in cui si è riconosciuto di aver sbagliato. Anche recentemente Obama a un certo punto aveva riconosciuto di aver sbagliato su alcuni punti, quindi non credo che sia una caratteristica femminile, però quello che mi sembra molto importante è che questo gesto venga oggi in Italia proprio da una donna, perché può essere un esempio per tutte le altre donne, nel senso che l'esempio che viene dato è quello di poter dire no a una certa situazione, a un certo sistema, quello di poter ammettere di aver sbagliato, cosa che d'altra parte fa parte della condizione umana, tutti sbagliano, l'importante e la grandezza è quello di riconoscerlo. Non è uomo nel senso di essere umano colui che non cade mai, ma colui che cade e che si sa rialzare. Quindi se questo messaggio potesse veramente passare verso le donne, verso gli uomini, sarebbe straordinario. Poi a questo proposito, sempre Michela Marzano, sulle pagine, mi pare, milanesi del Corriere di Repubblica, in questi giorni c'era una polemica, brevi articoli, sul fatto che c'è un psicologo americano arrivato in questi giorni che dovrebbe fare tra oggi e ieri, oggi e domani, un convegno vicino Brescia, si chiama Joseph Nicolosi, e lui ha questa teoria riparativa per guarire i gay. Mi sembra che ci siano state un po' di polemiche, visto che appunto questa settimana c'è la giornata mondiale contro l'omofobia. Poi di argomenti, quindi abbiamo toccati già tanti. A proposito di boss, ritorno invece su un pezzo oggi sul Corriere della Sera, prima pagina, di Luigi Fararella, che dice: gli agenti sono pochi, niente processo ai clan. Succede a Milano, giudici, avvocati da mezza Italia, cancellieri, tutti nella maxi aula per un processo d'appello all'Ndrangheta, tranne i detenuti che il carcere di Opera, vicino Milano, non riesce a portare in tribunale a Milano perché, dicono, mancano gli agenti di polizia penitenziaria, così il processo è bloccato. Robe dell'altro mondo, robe marziane, uno direbbe, invece sono qua, sulla terra italica. C'è Lino dalla provincia di Messina, dritte dritte in Sicilia, Lino. Ciao, come va? Ciao Lino, bene, bene, qui c'è un po' di sole anche a Milano. Qui è una bellissima giornata, intanto ti do questa notizia. Grazie. Serve un po' di sole. In Sicilia è abbastanza scontato, ma c'è il sole anche a Milano, via. Beh, dopo insomma, diciamo che ultimamente non è stato così, comunque non era questo il motivo della telefonata. Per rompere il ghiaccio, via. Sì, ci mancherebbe altro. Qual è l'argomento? Ci prendiamo troppo seriamente. Sì, spesso. Sì, per carità. Senti, no, io dicevo su Santoro che rispetto, mio Dio, è un giornalista, è un professionista, una persona da cui apprendere tanto, però il fatto che gli sia stato dato 20 minuti per esporre una posizione personale che rispetto alla trasmissione, voglio dire, io non ho pago il canone per sentirmi Santoro che racconta i fatti suoi, credo che sia un attimino una cosa che quantomeno discutibile, no? L'avesse voluto fare una conferenza stampa ne avrebbe avuto diritto, ma impegnare il tempo della trasmissione per cose sue, personali, voglio dire anche legittime, attenzione, mi è sembrato un po' un abuso da parte sua, così come l'abusi se non è d'accordo con la linea editoriale, posso anche rispettare l'opinione, ma rendere pubblico che lei non va in video, ma lei è pagata, lei è una dipendente Rai, se la Rai le dice di fare una cosa la deve fare, io non credo che ognuno di noi possa un posto di lavoro farlo. No, diciamo che c'è anche però una dignità personale e professionale, no? Ma si esprime in separata sede, senza fare scalpore, con tanta dignità e modo di fare, con moderatezza, il fatto di dover rendere pubblico ogni cosa che ognuno decide, come se l'abusi facesse opinione e potesse condizionare chissà chi e chissà cosa. Diciamo che massimo rispetto sulla posizione dell'abusi, non entro nel merito, ma nella forma sì, perché dico, non è che io la pago come cittadino italiano per sentirmi dire non vado in video perché non sono d'accordo col direttore. Sei dipendente, mio Dio. Però lei, non la... però lei Lino non l'ha detto in televisione, su Santoro dice ha fatto un utilizzo privato di un mezzo pubblico, però lei ha scritto una lettera che poi è stata pubblicata, vabbè se ne è parlato, però non l'ha detto lei in video, Lino. Non metto in discussione questo, metto in discussione che probabilmente io da dipendente, quale sono, non potrei scegliere se fare una cosa o no. Lino, che dipendente sei tu? Io sono un dipendente di un'azienda privata, quindi credo che sia anche giusto che il mio contratto di lavoro dica cosa posso fare e cosa non posso fare, cosa devo fare e cosa non devo fare. Penso che anche lei possa, dico, attenersi a quello che dice il suo contratto di lavoro. No, mi sembra, come dire, un po' anarchico questo comportamento, al di là della dignità personale che rispetto. Lino, ti ringrazio, goditi il sole siciliano, il mare se te, puoi. Auguri anche complimenti per la trasmissione. Grazie molto Lino. Buona giornata. Grazie a te. 800 24 00 24, vorrei sentire, tra poco c'è Annibale da Cremona, Annibale abbia ancora un po' di pazienza al numero verde che adesso ci prendiamo una piccola pausa fra poco. Volevo sentire proprio un breve commento di Michela Marzano su questo che diceva Lino. Grazie, infatti mi volevo proprio intervenire, sì. Nel senso che bisogna stare molto attenti a distinguere, nel senso che non è perché io sono pagata o sono dipendente che devo andare al di là di quello che la mia stessa coscienza mi dice. Si parla della possibilità, anzi della necessità e del dovere di disobbedire a degli ordini ingiusti. Cerchiamo di non cadere nella trappola di credere che nel momento in cui ci viene chiesto di far qualcosa, a partire dal momento in cui consideriamo che questo qualcosa è ingiusto, che lo si debba fare, perché purtroppo, naturalmente, mutatis mutandis, è quello che era accaduto alla giustificazione che è stata data da un certo numero di nazisti che hanno detto che obbedivano a degli ordini perché gli ordini venivano dati dalla gerarchia. Bisogna stare attenti soprattutto quando poi la propria professione è quella di essere giornalisti, un giornalista ha come scopo nella vita di cercare di chiarire la verità e quindi non si tratta di portare avanti delle opinioni e di accettare che degli ordini vengano dall'alto, ma quello di continuare di avere la possibilità di portare avanti il proprio lavoro. Non si tratta di disobbedire, si tratta semplicemente di dichiarare un proprio dissenso, eventualmente di cambiare di testata, di cambiare di rete per poter portare avanti in maniera degna il proprio lavoro. Michela, se non sbaglio, lontanamente era un po' un argomento che riguardava il tuo libro dell'anno scorso, questo o no? Ma dunque, un po' sì, nel senso che il libro dell'anno scorso era estensione del dominio della manipolazione, in cui effettivamente cercavo di analizzare questa tendenza alla sottomissione volontaria rispetto agli ordini che ci vengono dati perché si ha tendenza a integrare il punto di vista che viene dall'esterno, anche se poi si va contro la propria soggettività con sofferenze interne molto alte di cui poi si paga a un certo punto il prezzo. 800 24 00 24, le vostre telefonate. Gli argomenti che abbiamo trattato sono veramente tanti. Questo è sempre, vi dicevo, il momento, per chi non lo sapesse, del bilancio, del consuntivo dei fatti della settimana, per ritornarci tutti insieme con diversi punti di vista, per commentare, insomma, per tornare a riflettere, per dire quella cosa che c'era rimasta un po' impigliata qua e là e non abbiamo avuto modo di esprimere. Il numero è sempre verde, quindi gratuito, 800 24 00 24. Quindi dicevo, tra gli argomenti, il caso di Maria Luisa Busi, la vicenda Santoro, abbiamo parlato un po' di mafia, di questo processo bloccato a Milano per l'Andrangheta perché c'è mancanza di agenti, abbiamo parlato della giornata mondiale contro l'omofobia, vari temi, un po' abbiamo toccato di sghimbescio anche i tagli agli stipendi dei politici, perché ne ho parlato molto la scorsa puntata dal Salone di Torino con Luca Ricolfi, però ritorna Gian Antonio Stella sul Corriere questa settimana, una cosa molto interessante che, se abbiamo tempo, poi qualche riga ve la racconto. Ma torniamo sugli ascoltatori, c'era Annibale da un po' che aspettava, grazie della pazienza. Annibale, ciao. Da Cremona, ciao Annibale. Ciao. Devo farti i complimenti per la trasmissione e per la tua voce. C'è una voce che riconcilia col mondo, con la vita. Annibale. La voce soave hai. Ti ascolto sempre. È bella, uè. Grazie, dico, grazie infinite. Oggi sono un po' atturata, oggi sono un po' atturata, ma ti ringrazio comunque. Volevo parlare di Santoro, no? Sì. Io come che pago il canone mi sento... È una cosa vergognosa che diano i miliardi a un fallito, un comunista fallito. Santoro è un comunista fallito, che la teoria che parlava lui anni fa è fallita. Dovrebbe andare a casa, come se fosse, invece stanno lì tutti a mangiare, mangia. Annibale. Mi sento, cioè, se fosse Berlusconi che gli dà, me ne frega niente, ma la RAI. Annibale, è una cosa pubblica, ascoltami, però è vergognoso, è scandaloso. Ma dimmi una cosa, Annibale, adesso si può condividere o non condividere, ma se fosse effettivamente fallito Santoro, perché porta il 20% di ascolti a Rai 2 e può avere una buona uscita di 10 milioni di euro? Guarda che la sinistra aveva tantissimi voti anni fa. Sì, sì, sì. Adesso c'è lì un PD, che cos'è? Né carne né pesce. C'è l'Assemblea Nazionale. Questo è un fallito e se ne deve andare a casa. Grazie, ciao. Ciao Annibale. Grazie Annibale. 800 24 00 24. Giuseppe da Livorno. Buongiorno. Buongiorno Giuseppe. Senta, intanto rapidamente vorrei contestare quanto detto da chi parlava prima, perché voglio dire, giudicare Annibale. Santoro per la trasmissione, che peraltro non ho visto. L'ultima puntata, dici? L'ultima puntata, sì. Però voglio dire, Santoro ha sempre fatto un grandissimo servizio. Se una volta si è voluto prendere lo sfizio, al limite, tra virgolette, non correttissimo, diciamo, ma penso che per quello che ci ha dato in cambio se lo poteva prendere tranquillamente. Cioè dici di prendersi questi 20 minuti nell'introduzione della trasmissione e parlare del suo caso. Tutto quello che ha fatto, voglio dire, credo che se lo meriti abbondantemente. A parte che, premesso che non sono un elettore né di destra né di sinistra, che detesto la politica e poi si sta sfaldando come sotto gli occhi di tutti, però volevo agganciarmi al discorso relativo alla Carfagna. Direi che non so se è passato inosservato, ma tempo fa ho letto su un articolo in cui la Carfagna diceva che la nuova sul DDL intercettazioni si potevano creare problemi per combattere lo stalking, perché in definitiva... sì, è vero, l'ha detto, sì, bloccando le intercettazioni. Quindi voglio dire, questa Carfagna non solo ha fatto, diciamo, pubblica ammenda per quello che... E quindi dimostra di quello che pensava dei gay, sì, estremamente intelligente, ma oltretutto anche si è messa un po' in contrasto con quella che è la maggioranza, che cerca di chiudere la partita, magari poi tutto sommato anche in accordo con la sinistra, sul problema DDL, che chiuderà definitivamente la possibilità di scoprire quello che si può scoprire. Giuseppe, ti ringrazio. Cosa hai mangiato, caciucco oggi? No, perché io sono livornese, ma sono nativo, sono diciamo padre messinese, madre lucchese, sono qui, diciamo, vivo in questa città per lavoro e basta. Però ti piace Livorno? No. Sì, Livorno mi piace, è una città che per com'è strutturata è una città molto fortunata dal punto di vista climatico. Però secondo me un po' sfortunata dal punto di vista dell'organizzazione generale, perché effettivamente diciamo un po' caotica che... ma simpatica e vivace, via Livorno. Sì, eh? Sì, Giuseppe, diciamo... grazie mille allora. Grazie. Grazie a voi e volevo dire che ho conosciuto Radio 24 da poco tempo, ma me ne sto innamorando. Oh, allora un amore reciproco, Giuseppe. Sono 10 anni che ci siamo, meglio tardi che mai. Ecco. Grazie, Giuseppe. Grazie, grazie, complimenti. Ricordati sempre il sabato dalle 14 alle 15, non ci sono più le mezze stagioni e poi comunque siamo in onda 24 ore su 24. Mauro, Mauro Grimoldi da Milano, nome e cognome. Mauro. Sì, buongiorno Roberta. Buongiorno. E grazie di avermi dato spazio. Grazie che hai chiamato, Mauro. Prego. Io ieri c'ero al convegno di questo psicologo americano. Nicolosi, Nicolosi. Sì. Sì. E c'ero a rappresentare l'ordine degli psicologi della Lombardia. Perché tu sei? Io sono il presidente dell'ordine. Presidente dell'ordine dei psicologi della Lombardia. Sì, sì, sì. E devo dire che, insomma, sentendo parlare di diritti civili, ma soprattutto sentendo parlare di Marte, devo dire che questo mi è un po' risuonato, perché un po' ieri la sensazione che mi sono portato a casa è un po' quella, cioè di trovarmi un po' su un altro pianeta. Ah, pensavo ti volessi trasferire, no? No, beh, forse anche, però diciamo la sensazione prevalente era quella che ci fosse un piccolo Marte all'interno poi del nostro pianeta. Sì, effettivamente questo psicologo americano sta portando da diversi anni in tutto il mondo questa teoria riparativa dell'omosessualità, che oggi effettivamente loro cercano un pochino di modificare, dicendo che sì, non è proprio riparativa dell'omosessualità, però effettivamente no, i loro libri dicono questo. Noi come ordine... Cioè Mauro, nel senso attacca, riattacca dei pezzi, com'è che ripara? Sì, ripara il guasto, ripara ciò che non va bene, ripara ciò che ritengono essere deteriorato. Come un'autofficina, insomma, una cosa così. Sì, un po' come un'autofficina, però questo non si può fare, nel senso che il mondo scientifico, a seguito anche di un mutamento della sensibilità della società civile tutta, ha modificato l'orientamento in base al quale l'omosessuale è malato, e questo effettivamente uno psicologo e un medico, una persona che lavora all'interno di quello che è un codice deontologico, lo deve sapere. Si può dire tutto, ma non si può fare tutto nel nostro settore, e noi questo lo dobbiamo dire a tutela di tutte le persone eterosessuali e omosessuali che comunque si propongono come pazienti ad uno psicologo. Gli psicologi non sono così. Lo psicologo deve essere aperto a qualunque tipo di atteggiamento politico, religioso, sociale e anche di orientamento sessuale del proprio paziente, tutelandolo, quindi cercando di rispettarlo nel proprio orientamento. Se non è in grado di farlo, si astenga. Bene Mauro, mi sembra un'ottima conclusione questa. Senti, state facendo qualcosa quindi per questo in corso adesso? Abbiamo fatto una delibera come ordine in cui abbiamo richiamato al rispetto di quello che è il nostro codice deontologico e anche ai pericoli che sono insiti in questo tipo di teoria, quindi raccomandando ai colleghi di prestare estrema attenzione, poiché questo tipo di teoria, se applicata ai pazienti nel modo in cui è descritto, e rischia fortemente di trovarsi in violazione del codice deontologico, ossia questo che io ho coniato come dinosaurismo scientifico, questi antichi in qualche modo che riportano dei vecchi pregiudizi all'interno del mondo scientifico, e non lo possono fare, ci vuole una limitazione nella prassi, ecco, questo mi sembra molto importante. Tutto si può dire, ma non tutto si può fare. Grazie a Mauro, presidente Mauro Grimoldi, presidente dell'ordine dei psicologi della Lombardia. Grazie Mauro, così abbiamo avuto anche una testimonianza di questo tipo, ci stiamo proprio molto articolando con le notizie questa settimana. Michela Marzano? Sì, grazie, volevo proprio intervenire su questo intervento di Mauro, perché effettivamente è un punto fondamentale. Parlare di teoria riparativa è estremamente pericoloso, perché significa che si implica che c'è qualcosa da riparare, e credo che ormai nel XXI secolo si dovrebbe essere capaci di andare al di là di questi pregiudizi. Quando si parla di orientamento sessuale non si parla di malattia, non c'è niente di malato, è semplicemente un orientamento sessuale diverso e che deve essere tutelato, è una scelta che viene fatta in maniera consapevole, in maniera inconsapevole, questo poco importa, ma è vero che da questo punto di vista è stato estremamente un grande peccato l'affossamento della legge Concia nel mese di ottobre, in cui si parlava di cautelare gli omosessuali contro degli atti, contro dei gesti e contro delle parole di omofobia. È per questo che è importante importante il fatto che la Carfagna sia tornata indietro, perché si possa fare qualcosa nel nostro paese per tutelare le persone che hanno un altro orientamento sessuale. In un momento in cui in Francia si discute della possibilità dell'omoparentalità, del matrimonio per i gay... Avete già i PACS voi comunque, no? Prego? Avete già i PACS? Sì, avete già il PACS. Una specie di unione. Di andare più lontano, cioè di parlare di matrimonio, di parlare di adozione. Che in Portogallo è stato approvato questa settimana invece il matrimonio, il paese cattolicissimo, matrimonio tra persone dello stesso sesso. Claudio da Roma. Ah, buongiorno. Buongiorno Claudio. Buongiorno, vi faccio i miei complimenti. Io ho cambiato, non sento più la sera Cruciani, ma preferisco sentire a lei, perché Cruciani... dopo un po' mette la museruola, quindi... Vabbè, tutti i gusti sono gusti, Claudio. Scusi la critica, ma mi permetto di farlo. Allora, però io chiamo, perché qualche minuto fa ha chiamato l'amico siciliano di Messina e sì, portava un esempio rispetto al fatto che lui è un dipendente privato. Lino, sì. E non si sognerebbe mai di andare contro il direttore. Mm. Allora io... presumo che il direttore, che è stato lui, non so se è una fabbrica, se è un'azienda, sicuramente c'è un qualcosa di ritorno. Cioè tu sei in una fabbrica, fai il tuo dovere, non vai contro perché devi portare a fine mese un prodotto. E quel direttore sarà stato messo da persone con una certa logica di comportamento, da qualcuno che ha creato questo personaggio per poter dare organizzazione all'azienda. Allora io mi domando, prima di tutto sappiamo chi ha messo l'amico Minzolini a TG1 e secondo lei quello è un direttore che a fine mese porta un prodotto? Io sento da diverso tempo che stanno calando gli audience sul TG1. Allora la giornalista in questione, che sicuramente ha un'anima e per sua fortuna sta in un'azienda pubblica, dove molte volte dice vabbè tu lì non ti manda via nessuno, ma lei non sta né rubando né maltrattando, lei sta portando avanti una sua logica di pensiero che va in contrasto con chi sta distruggendo l'azienda. Tanto più Santoro, come ha detto lui, dice io sto sempre col proiettile sulla tempia, ma si può lavorare in quei termini, perché? Perché lui può portare un prodotto che forse non va bene a qualcuno degli uomini forti. Quindi la conclusione è questa, tutta la mia stima e la gratitudine a due personaggi, Santoro e Labusi, che riescono a tenere alta la testa e avere i mezzi, bontà loro, per poter difendere tutta l'Italia da questa dittatura, da questa mancanza di democrazia e libertà. Punto. Grazie Claudio. E adesso direi, visto che ci avviciniamo velocemente verso il termine, prima di sentire un commento finale di Michela Marzano e vediamo se riusciamo con Manuel, se poi mi perdona se non ce la facciamo, anche il nostro appuntamento immancabile con Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, perché c'è un tema di quelli grossi di questa settimana, anche le intercettazioni, anche la Marziana da Marte ne aveva parlato, e quindi proporrei come parola della settimana, Valeria Della Valle, intercettazioni, intercettare. Valeria. Intercettare, eccomi qua. Allora, intercettare è un verbo che esiste nella lingua italiana già dai tempi antichi, l'hanno usato Galileo, Leopardi, Mazzini, ma il significato naturalmente era diverso, voleva dire non c'erano i telefoni, qualcosa, ecco, qualcuno giunga a destinazione, e questo era specialmente riferito alle lettere. La parola intercettazione, soprattutto nei significati attuali, è nata molto più tardi, è nata più tardi come sostantivo nel 700 e nell'800 e poi naturalmente solo in tempi recenti con i vari significati. Il primo è stato quello, l'intercettazione era l'attacco contro un mezzo aereo nemico prima che raggiungesse l'obiettivo, no? L'intercettazione di una pattuglia nemica, e poi ecco quello che ci interessa, l'intercettazione ambientale, l'intercettazione telefonica, cioè registrazioni di conversazioni telefoniche o di colloquio o di colloqui, ma all'insaputa di chi le fa, di chi le comunica. Allora, come sempre, brevissimo commento. E beh, insomma, le intercettazioni, il verbo intercettare, forse ogni tanto, vista la pressione e l'ansia di questi argomenti, ci farebbe piacere ritornare al significato originario, a uno dei significati originari, che era anche quello di intercettare uno sguardo, intercettare, sì, intercettiamo un sguardo, ecco, passioni, sorrisi. E questo è un commento. L'altro commento è che le intercettazioni danno molto da fare, molte preoccupazioni ai politici e ovviamente ai magistrati, e danno molto lavoro in senso positivo ai linguisti, perché ecco che dalle intercettazioni è nata una espressione geniale creata una volta di più dai giornalisti, la legge Bavaglio, che mi pare un modo geniale per alludere a quello a cui tutti sappiamo che ci si riferisce. Valeria, tra l'altro, è a ritirare un premio, sei finalista comunque, dove sei? In Abruzzo? Sono finalista per il libro Viva il congiuntivo e tra qualche ora saprò se davvero l'ho vinto, e quindi sono, come tutti quelli che aspettano il verdetto, sono in grande ansia. In trepidante attesa. In testa al grillo, care Valeria Della Valle, e con Valeria lasciamo il suo premio. Intanto vi ricordo che invece Michela Marzano parteciperà quel prossimo sabato 29 maggio a il primo festival di antropologia del contemporaneo, che va dal 28 al 30 maggio, si chiama Pistoia, dialoghi sull'uomo e perché non anche sulla donna, ovviamente lì si intende un neutro che però potrebbe essere un po' più articolato. Michela Marzano, io non ce la faccio con gli altri ascoltatori, chiedo scusa anche a Manuel, facciamo il prossimo sabato alle 14. Michela, come concludiamo? E come concludiamo? Questi 32 positiva. Secondi, sì. Concludiamo in maniera positiva cercando di tirare un po' una lezione da tutta una serie di avvenimenti di questa settimana, cioè dal fatto della Carfagna che riconosce di aver sbagliato, dal fatto che la Busi decide di cambiare e di riconoscere che il lavoro del giornalista non può più essere portato avanti nel momento in cui si è di fronte a un pensiero unico, e concludiamo dicendo è bello che siano due donne che ci danno un messaggio positivo e che siano due donne a incitare le altre donne a cambiare la situazione in Italia. Che conclusione, grazie Michela Marzano e al suo libro Sibella e stai zitta, pubblicato da Mondadori. Michela, buona continuazione a te, buon rientro a Parigi quando ne entrerai, spero di averti presto ospite, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.